Porco Dio, che tempo di merda. E adesso la parto. La pioggia mi assale, mannaggia la donna. E adesso parto come quando jam rolla la canna. Chi lo ferma se non la pula postata? Coi cani da guardia, la verità si paga cara. Chiedilo al giudice che chatta. Con la mafia non risparmia il condannato che si inginocchia. Ci messaggia su WhatsApp, su Twitter manda un tweet. Seguono tutti gli aggiornamenti ma poi si improvvisano dei finti VIP. Dammi quel DVD, stampa il mastering su CD. Domani tanta roba nei negozi e ci facciamo il money. Dai baciami le mani, manco fossi Don. Io sto al bene come il bene sta alle bon. Rime originali non banali tipo i buoni film. Te lo godi ma non li copi tipo Wolverine. Vado freestyle se lo faccio bene, buono compare. Tu lo fai male, fai cagare ma ci provi, ok, non te la tirare. Non parlare di ganja se dici che si pippa. Torna su Pornhub a fare quello che facevi prima. Sta piovendo, mannaggia Dio. Quando un anno nuovo è meglio, non è vero niente. Fa schifo più di quello precedente. Mannaggia la Madonna impertinente. Questa è una dimostrazione di skills. Un'autocelebrazione che può fare solo Six. Mi cerco i dissing ma ogni volta finiscono in bende. Davide contro Golia, posso recarti delle leggende. Non spammo su Facebook le mie barre. Non sono la consolazione di essere una delusione per mio padre. Non riconosco il nome ma solo il flow di merda. Con la metrica tutta sballata tipo il cielo in discoteca. Per fortuna non sono SJ, nemmeno mi chiamo Luque. Uno dissa pure Cristo cane, l'altro se la crede in studio. Dovresti star muto prima expa up al tuo livello. Se ti misura mi basta un righello tipo un regolo da uno col tuo pisello. Sai che ti dico? Voi avete fallito. Non darmi del coglione solo perché io scrivo e libero dico tutto. Voi in lutto, mi presento ora. Piacere zietto, il mio biglietto da visita sono io, il diavolo in persona. In persona. Il diavolo in persona. Guarda quella indefinita tonalità di bianco. La raffinata consistenza della carta, oh mio Dio. Ha persino una filigrana. Qualcosa non va? Patrick. Stai sudando. Stai sudando, stai sudando, stai sudando.